Ricordati delle cose chiare, non di quelle ovvie, di quelle luminose, non di quelle illuminate, di chi capisce poco, ma non ha visto tutto. Scoprire è meglio che capire, capire è meglio che spiegare. Fidati di chi non si vergogna di cantare come gli viene, e non delle canzoni di chi ha messo la testa a posto e non ricorda dove, di chi balla per la strada, soprattutto quando piove. Tutto quello che ama sbagliato, tutto quello che beve corretto, tutto quello che crede imperfetto, tutto quello che ho perso rimane. E la voglia di bruciare, di bruciare, bruciare, bruciare, non mi chiedere di cambiare, tutto quello che amo fa male. La la la la la la la la la la la la. E alla fine è meglio essere liberi che furbi, meglio essere sprovveduti intelligenti, e alla fine è meglio essere vivi che vissuti, meglio essere sbagliati che incompiuti. Il resto sono solo scuse per sentirsi in fondo in compagnia, e rimanere soli con i propri alibi mentre il tempo vince un altro solitario con te. Tutto quello che amo sbagliato, tutto quello che beve corretto, tutto quello che credo imperfetto, tutto quello che ho perso rimane. E la voglia di bruciare, bruciare, bruciare, non mi chiedere di cambiare, tutto quello che amo fa male. Tutto quello che amo sbagliato, tutto quello che beve corretto, tutto quello che credo imperfetto, tutto quello che ho perso rimane. E la voglia di bruciare, di bruciare, bruciare, bruciare, non mi chiedere di cambiare.